che mi piace a me, mo faceva solo mamma, a che m'hai sposata a te, ne parlamme per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo vamme l'ambienza astuso, ma lo vamme l'ambienza astuso. Si va buo come vuoi tu, mo ci avessimo a percecare. Tu che dici, chi sterra u? E io mo mangio per mo mangiare. Ma fa dicere una parola, chi ste carna capo un marola, chi ste carna capo un marola. Si va buo come vuoi tu, mo ci avessimo a percecare. Ora u che ti piace a te, tu faceva suale mamma. Ma fa dicere una parola, chi ste carna capo un marola, chi ste carna capo un marola. Al Turtlen, il tortellino. Il tortellino è stato servito a tavola per la prima volta a Bologna nel 1821 dalla signora Adelaide. Il tortellino non è una minestra, ma è la nobiltà della gastronomia bolognese. Il ricco si distinse dal povero anche per questo. Lui mangiava i tortellini tutti i giorni e il povero solo per Natale, buona grazia. Le ricche tiravano di scherma, ma le povere tiravano la sfoglia e il ricco dovette venire a patti, così il povero poté mangiare tortellini anche per Pasqua e per gli addobbi. La storia più affascinante vuole che l'inventore del tortellino si ispirasse all'ombelico di Venere. Ed è talmente piacevole la leggenda che oggi desideriamo farne protagonista il gran maestro di cucina, Bruno Tasselli. Una femmina di nome Zaira era versa sul canapè, le lenzuola di seta sul corpo e tasselli caldevoli c'è. Perlustrando i meandri tla d'ora, le scoprì piano pian l'ombelico, axeplen piccolino e rotondo, che tasselli al gesso bit stupendo. Si schernì la bella Zaira. Un bel bligo, il resto l'hai visto, te fa sempre arrivare in felle, ma perché non continui l'amplesso? Ma il Turtlen, specialità donna bugnaisa, assieni che a tavola senti che favola, sente il Turtlen, al Turtlen. E in bols la bella e la buona, per convincere il cuoco Tasselli, c'è chi dice che giunse al traguardo, col fie grosso e il cuore a brindelli. Che bel bligo che avete Zaira, ma veda ben che rasa e fortuna, m'è venuta in mente una cosa, la sbanderca scapi in cuseina. Raduno sfogliarini e servienti, che sia fatta una splendida sfoglia, nus busche e mortadella e la lonza, che è un bligel da fera memoria. Ma il Turtlen, specialità donna bugnaisa, siediti a tavola, senti che favola, sente il Turtlen, al Turtlen. E provò, riprovò mille volte, col pensiero rivolto a Zaira, o per un brigo nel ne mega facile, a ne esager basserete una sera. Alle tre meno cinque tasselli, e sul to ci sono riuscito, fanne un altro, fatene cento, per Bologna è un grande momento. Arrivò dalla bella Zaira, tutte bien col cappello da chef, scoperchiò la zuppiera d'argento, al tuo obbligo Zaira, leque! Ma il Turtlen, specialità donna bugnaisa, siediti a tavola, senti che favola, sente il Turtlen, al Turtlen. Ma il Turtlen, specialità

guarda l'amore come se vedessi una cosa da mangiare speciale e delicata. Mangiala piano piano e senti in bocca il sapore che ha. Io mi metto a cucinare. Entran così, cassarola, no, brasca, dosa limpia, una durra delina chi va, rifata può fare, papà è una regina. Sa ci putta fina fina, tira da malvasia, è una pertigi può fare in su foto, nostra signora, sa cosa va fare. Nostra signora, vado genti! In terra chi sonata e signora rosa chi ho qualcosa ma attacca butto i canofini blu torna così e sa per ticino due blu si c'è bobata tutta bruciata ai comandata fai su vota nostra signora sa cosa e va fai Castio si immagina e debbio nostra signora chi si indarri ai Gesù Maria se macchian di me. E nostra signora si immagina di casti a pisti vidi di sti cantata con voci melodiosa. Ma allora tu scombagna a sa campida nesa. Gesù Maria stai già voce. Ma allora tu scombagna a sa campida nesa. Signora Benedetti. Dopora così, a balla gusso, tano mi sanzianemo su, spridune dubiti, cupiti, cuchi, mabiti, o tortueri con nada mia lela. Su porre bello budio, pazzo, signa, cruci in su rosò, e me pungio castia torra, si immagina de nostra signora, nostra signora, cest. Una palluta candeba bene ida, chi no da lu, non se signora non tenita grazie de chi vai. Lo vai. E tu di gioco che mi vastigia non tesi di due mi dunai. Deo mi tu castio tutto i disigio, non se signore sa cosa va fai. Ma allora tu compagna sa campida nesa. E non se signora di tesi do papà. Ma allora tu compagna sa campida nesa. I tenei, i tamannao. Cai in samori commenti così, lo cobera fai cosa me da complicata. Ed intendi o ta stai, su sapori ed ogni cosa e noi a fai tutta sa cosa a mesurata. Cai in samori commenti così, una cosa papai speziali e delicata. Paparida bella bella intendi buca. Su sapori chi vivai, Deo mi voglio cucinare. Allora tu, ma allora tu scompagna sa campida nesa. E nostra signora di tesito papà. Ma allora tu scompagna sa campida nesa. Itanao, itanao, itanao. Ma allora tu scompagna sa campida nesa. Nostra signora di tesito. Ma allora tu scompagna sa campida nesa. Chi stenna sto dai, luvetti, luvetti, luvetti, c'è pure un mascolo, piglia la fiocina, accidilo, accidilo, ah. Te pigliaro la femminetta, gitto gitto un cialu cori, e chi ancia di dolori, ai ai ai ai ai.

lo spettacolo Tavole imbandite, l'arte culinaria attraverso i racconti della tradizione, la letteratura e la musica. Spettacolo concerto con Ermelinda Bonifacio e Carmine Torchia. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Alessandro Cavoli, direttore artistico della quarta edizione del Festival di Teatro Politico a Rocca Sinibalda dal 31 agosto al 3 settembre 2022, questo per quanto riguarda la parte centrale. Ben trovato. Ben trovato a te Federico, ciao, buonasera. Dicevo parte centrale perché c'è stato un prologo a Leonessa ad inizio agosto e ci saranno altre date nell'autunno, giusto? Sì, è giusto. Quest'anno Teatro Politico, anche detto Green Political Theater, quest'anno si è spostato da Rocca Sinibalda verso altri paesi della provincia di Rieti. Il festival sta funzionando e quindi più comuni hanno chiesto insomma delle serate. Abbiamo fatto la prima a Leonessa. Si è parlato di montagna all'inizio di questo mese di agosto. Adesso ci trasferiamo sulle colline che precedono la Sabina, a Rocca Sinibalda. Rocca Sinibalda avrà diverse tematiche, la prima sera con gli attori del luogo che verranno riuniti per cercare di vedere se si trovano un minimo comune denominatore sui diversi fronti di sviluppo del territorio, quindi turismo, cultura, agricoltura. E poi i giorni successivi sono dedicati a diverse tematiche, tra cui diciamo la principale, poi il 3 di settembre sarà quella partnership per gli obiettivi dedicata a Greccio, che il prossimo anno avrà l'ottocentenario della nascita del presepe da parte di Francesco Assisi, e quindi sarà una serata dedicata a come questo territorio riuscirà a ospitare questo evento, insomma, che si preannuncia come l'evento principale del prossimo anno. Quest'anno abbiamo legato le serate ai vari obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Europa, quindi questi obiettivi vengono calati nelle varie serate in relazione naturalmente a quella che è la caratteristica storica, politica e morfologica del territorio che in quel momento lo ospita. Poi avremo Vita sott'acqua, per esempio, il 17 e il 18 di settembre a Colle di Tora, che è un paese praticamente circondato dall'acqua del lago. Spieghiamo anche come ha avuto origine questo festival. Sicuramente da un'esigenza che abbiamo sentito nel corso degli anni, il lavoro del Teatro Rigodon si è andato sempre più indirizzando verso il lato sociale e politico, sia dal punto di vista territoriale che europeo. E quindi pian piano, senza rendercene conto, siamo scivolati verso una funzione politica e sociale del teatro. E come tutte le cose, uno se ne rende conto dopo, mentre le cose sono successe, ma in realtà già insomma negli anni precedenti eravamo stati attenti alla politica europea. Non so, la cosa più lontana che ricordo è un discorso sulla Grecia del 2016, quando ci fu la grande crisi, uno spettacolo dedicato a quello. Poi pian piano si sono moltiplicati per lo Scodellaro in Basilicata, Rocco Scodellaro, che era un sindaco di Tricarico e anche un attivista politico, nonché un poeta, e così via. Le tematiche che abbiamo sviluppato con l'Europa, l'inclusione, la parità di generi, poi da ultimo queste officine del teatro sociale, che la Regione Lazio ci riconosce per lavorare dentro a carcere di Rieti con dei gruppi di anziani. Quindi accanto alle produzioni di spettacoli che sono slegate anche da questa logica, si va creando e delineando insomma un'attività pedagogica, un'attività sociale dedicata a questo. E il teatro politico è la parte finale di un processo che, ripeto, in parte è stato anche inconscio, credo, e in parte probabilmente non tutte le cose non lo è stato. Poi la mia è una passione politica antica, e il sindaco di Rocca Sinibalda anche una passione politica antica, e così via. Poi le cose si vanno declinando da sole in qualche modo, e così è accaduto per il teatro politico. Come saranno strutturate le giornate? Quelle aperte al pubblico si comincia alle 6 del pomeriggio con una sezione dedicata al jazz, con dei jazzisti che vengono da Berlino, che si uniscono ai jazzisti di Roma, e presenteremo dei libri dalle 6 più o meno alle 7 e mezzo. Quest'anno si è scelto per lo più di presentare dei libri dando spazio a quelle che sono le case editrici che abbiamo sul territorio della provincia. Quindi ci saranno presentazioni di libri che naturalmente hanno un legame con l'aspetto sociale e politico del festival, quindi questa viene alle 6, 7 e mezzo, e poi dalle 7, 7 e mezzo si comincia col teatro politico, che va fino alle 10. Il teatro politico è un format che mescola il teatro, musica dal vivo e interviste a attori politici locali, a giornalisti, a politici regionali, nazionali, in una modalità di, chiamiamola, interviste, che però generalmente non hanno necessariamente uno stretto legame con la politica portata dai vari rappresentanti. Si cerca sempre una via trasversale, una via curva rispetto a quelle che sono le tematiche, quindi non si guida il politico per farci raccontare quello che ha fatto nell'ultima legislatura, ma piuttosto per quello che farebbe in quel contesto, per quello che prevede possa essere uno sviluppo di quel territorio. Insomma, siamo sempre nell'ambito del teatro, inteso come previsione, come visione del futuro, proiezione del territorio. Ecco. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Li trovate sulla pagina Facebook e Instagram del Teatro di Codon, sul sito del comune di Rocca Sinibalda e sulla pagina Facebook di Rocca Sinibalda Che Paese. Quarta edizione del Festival di Teatro Politico a Rocca Sinibalda dal 31 agosto al 3 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Cavoli. A presto! Grazie a te Federico. Aggiungiamo solo questo, che Federico, che è stato incontrato dal Teatro di Codon in questi anni, insieme a Umberto Leoncini, sarà il protagonista, perché sarà colui che intervisterà le persone durante il format di teatro politico, e per questo ti ringraziamo Federico, sei un compagno di viaggio molto, molto apprezzato dal Teatro di Codon. Con Federica Mancini, direttrice artistica della terza edizione di Contattitere, Festival Latino di Teatro di Figura a Roma, Parco del Pineto e Biblioteca Casa del Parco dal 29 agosto al 6 settembre 2022. Ben trovata! Grazie, ben trovati a voi. Ce lo presenti? Quest'anno, come le passate edizioni, iniziamo sempre con un workshop. Quest'anno è sui teatrini Lambe Lambe, di costruzione e animazione, dal 29 al 1 settembre, condotto appunto dal collettivo Lambe Lambe Italia. E il 1 settembre quindi sarà alle 17.30, non la sera, lo spettacolo conclusivo del workshop, quindi tutti questi piccoli spettacoli che apriranno appunto il festival Contattitere. Subito dopo il laboratorio scenotecnico Filo, condotto da Giuliano Fasoli, dove i cittadini, guidati da lui, creeranno l'immagine di Contattitere e aiuteranno a fare gli allestimenti, a delineare le aree del parco. E poi tutti i giorni ci sono laboratori il pomeriggio per bambini di varie età, dai piccolissimi fino agli adulti anche. E la sera, dal 2, ci sono appunto gli spettacoli serali. Il 2 in particolare c'è quest'artista Ira Senille messicana, il 3 L'Uccello d'Oro, tutta una giornata sulla carta, in realtà L'Uccello d'Oro di Luce d'Umbra, e ci sarà una mostra tratta da uno spettacolo Parole di Vento, che tratta il tema del Covid, molto bello, e sono entrambi lavori fatti usando proprio la carta. E domenica 4, appunto, a parte l'incontro ravvicinato tra gli artisti del Portogallo che faranno poi lo spettacolo il 5, ci sarà Umani della Compagnia Il Loco, uno spettacolo molto bello anche questo. E ci sono anche le biblioteche, tra l'altro, coinvolte la mattina in vari laboratori per bambini. Il tema di quest'anno è la natura, per cui tutte le attività collaterali sono su questo punto qui. Il 5 c'è l'evento nell'evento, perché è un grande tributo che sento tantissimo a Vladimir Zagorov, l'inventore della marionetta da polso, che ci ha lasciato questo patrimonio inestimabile di bellezza. È una persona umana che dalla Siberia venne al Teatro La Casetta tanti anni fa. Quindi per questo tributo verrà proiettato un documentario breve, Illusia, di Ramona Glass. E poi c'è lo spettacolo di Trulé e Manuel Costa Diaz, in portoghese, con musiche dal vivo, Vola Vladimir Vola, che appunto è un suo allievo, tra l'altro, per cui riporta proprio la tecnica della marionetta da polso, così come lo spettacolo successivo delle 22 dorme della capra ballerina di Laura Bartolomei. Insomma, è una serata intensa. Il 6 arriva proprio il collettivo Landeland Italia e altre piccole cose satelliti, altri 4 gruppi che arricchiranno questa serata, insomma, con tecniche diverse, ma la caratteristica è sempre quella, in qualche modo, dell'ambelande. Quindi sono questi mini teatrini, spettacoli che si possono vedere uno spettatore per volta, diversissimi l'uno dall'altro, di pochi minuti, è una cosa molto particolare. Quest'anno sono coinvolti volontari del Decoro XIII, lavorando sull'ambiente, che faranno appunto anche una gita guidata nel parco, raccontando un po' tutta la storia, e questo il 2. Insomma, è ricco di eventi. Spieghiamo anche cos'è un festival latino di teatro di figura. Il teatro di figura, appunto, è quest'arte che comprende tantissime tecniche. Noi abbiamo un patrimonio grandissimo in Gallia, no? Da Pulcinella ai pupi siciliani, dai burattini alle marionette a filo, burraco, ombre, appunto i lambilambe, le maschere. Questo festival in particolare vuole proporre opere dei vari paesi latini, non solo dell'Italia, insomma, che sotto Covid, insomma, non è stato proprio semplicissimo. Abbiamo avuto un po' di sostituzioni da dover fare all'ultimo momento, per dare appunto una visione di quello che è il panorama del teatro di figura nel mondo latino, che è molto molto vivo, e far conoscere anche diverse culture. Per questo contatto, che la sezione è dedicata proprio all'incontro tra gli artisti e i cittadini, cerca di creare questo rapporto diretto tra quello che è stato l'artista, magari visto la sera prima o che farà lo spettacolo la sera dopo, con cui costruire cose, parlare, vedere, sapere del proprio paese, della propria cultura. Una cosa molto bella questa. Ci lasci tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Intanto c'è la pagina Contattitere, la pagina Facebook è la cosa più aggiornata continuamente, e poi ovviamente ci sono i nostri contatti telefonici per prendere gli appuntamenti. Tutte le attività ovviamente sono libere, ingresso gratuito, e non occorre prenotare per gli spettacoli, mentre per i laboratori e gli incontri sì, essendo un numero chiaramente limitato. E i numeri di telefono della segreteria sono 320-65-34-332 oppure 328-88-25-4180. Poi c'è ovviamente il sito della nostra associazione Cantieri dello Spettacolo, però appunto tutti gli aggiornamenti noi li facciamo continuamente sulla pagina. Terza edizione di Contattitere, Festival Latino di Teatro di Figura, a Roma, Parco del Pineto e Biblioteca Casa del Parco, dal 29 agosto al 6 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Federica Mancini. A presto! Grazie Lenide, ti aspettiamo, grazie tante. Con Lorenzo Ciccarelli dell'Associazione Teatro in Scatola per presentare il festival Di là dal fiume a Roma dal 27 agosto al 4 settembre 2022. Ben trovato. Ciao. Raccontiamo cos'è questo festival. Il nostro è un piccolo festival che è inserito nella più grande manifestazione chiamata Estate Romana, che è stata ideata alla fine degli anni 70 dall'architetto Renato Nicolini. Noi siamo alla quinta edizione ed è un festival tutto a ingresso gratuito, e cerchiamo di andare alla scoperta anche di luoghi insoliti, di spazi non troppo conosciuti, dove portare degli eventi di qualità. Quest'anno siamo partiti da questa candidatura a patrimonio immateriale dell'UNESCO dell'opera lirica, e dunque intorno a questo abbiamo costruito un po' la rassegna. L'opera lirica, che è una invenzione italiana, 1600 Firenze, e dunque da qui andiamo a visitare i laboratori scenografici del Teatro dell'Opera in via di Cerchi, nell'ex pastificio Pantanella, che funzionano già dagli anni 30, oppure a visitare l'attrezzeria Rancati a Roma Est, che contiene oggetti che per 150 anni sono stati utilizzati in teatro, in cinema, in televisione, nella pubblicità, nella moda, e quindi ci sono una grande varietà di armature, spade, gioielli, corone, arredi di ogni genere e tipo. E poi da qui abbiamo una bella collaborazione con il Conservatorio di Frosinone che ti permette di ascoltare i loro studenti di canto in un spazio inusuale che è quello del mercato nuovo, mercato di Testaccio. E poi un'altra collaborazione importante è quella con il Teatro Regio di Parma, che porta al Mattatoio uno spettacolo per bambini sull'infanzia di Giuseppe Verdi. E questi artisti portano il piccolo Verdi, sono Patrizio Dall'Argine e Veronica Ambrosini, sono accompagnati da un pianoforte. È uno spettacolo, secondo me, che esagerando, dico, è imperdibile, perché veramente questi due artisti sono molto attenti a tutti i dettagli e riescono ad accompagnare bambini in atmosfere molto particolari. Poi c'è la storica Roberta Petrotti che presenterà un libro, La storia dell'opera lirica, presso il Teatro dei Contrari, via dei 420. E poi ancora c'è la possibilità di vedere uno spazio, il Teatro di Documenti, che è stato costruito da uno scenografo, Luciano Damiani, che ha fatto anche la storia della lirica, perché per tanti anni ha progettato scenografie per la Scala di Milano, la Scala di Milano gli ha dedicato un'importantissima pubblicazione. E poi, per un gioco di scatola nella scatola, all'interno del Teatro di Documenti si potrà sia visitare il teatro, ma anche vedere la mostra dedicata a Salvatore Venditelli, o meglio a un periodo del lavoro di Salvatore Venditelli, che è stato un importante scenografo anch'esso. Poi ci si sposterà presso la Garbatella, presso la galleria dell'architetto Carlo Federati, dove parleremo anche lì di teatro. E sempre per quanto riguarda la lirica, abbiamo pensato di fare un omaggio a Luzzati e Giannini, che con i loro cortometraggi e film sono spesso ricorsi alla lirica come sottofondo dei loro film. Questo presso uno spazio polifunzionale a Testaccio che si chiama Il Qui del regista Marco Maltauro. E quindi ci sarà modo di immergersi nell'italiano in Algeri, nel flauto magico, nella Gazza Magra, nel Pulcinella. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il nostro sito è www.teatrescatola.it e poi siamo inseriti nella pagina ufficiale dell'Estate Romana, che si trova sul sito del Comune di Roma, insomma, che ha diverse pagine, ho visto quest'anno, per conoscere gli eventi che fanno parte dell'Estate Romana. Quinta edizione del Festival di là dal fiume a Roma dal 27 agosto al 4 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Ciccarelli dell'Associazione Teatro in Scatola. A presto! Ciao e grazie. Con Monica Morini del Teatro dell'Orsa per presentare la seconda edizione del Poeta Terra Festival, itinerante dal 3 settembre al 9 ottobre 2022. Ben trovata! Ben trovato Federico e a tutti voi. Ci immergiamo in natura e non solo, e siamo pronti ad accogliere spettatori che in modo attivo attraversano una scena chiamata Terra, che è casa nostra, sarebbe la casa da custodire che abbiamo, l'unica peraltro, ci dicono, per ora non c'è un altro pianeta dove stare, quindi avere non la Terra solo come palcoscenico, come scenografia, ma come luogo di ascolto, come luogo che ci accoglie, come luogo dove far riverberare i passi, i versi, le storie, è l'intento di Poeta Terra. E forse in un periodo terribile come quello che stiamo vivendo, dopo un Covid che ancora non ci ha lasciato, ma che ci ha trattenuto dentro le case, ci ha tenuto separati gli uni dagli altri, ci pareva che la natura fosse il luogo dove ritrovarsi e dove ricominciare a pensare insieme, come proprio come comunità che si ritrovano, perché è stato il luogo dove forse tutti noi siamo scappati anche per chi poteva, qualcuno cercava la campagna nelle settimane terribili anche del primo grande lockdown, e quindi da lì volevamo ricominciare. e anche dal territorio che c'è molto vicino, perché il territorio dove si svolge Poeta Terra è la via della biodiversità che sta vicinissima a casa nostra, quindi è Reggio Emilia, è però un territorio di confine della pedicollina reggiana, un posto magnifico, fatto pieno di aziende agricole, di realtà molto giovani che ricominciano proprio dalla terra, per dirsi vivi, con fatica, con slancio, con passione. Ci sembrava che ricominciare da lì fosse un bel passo. Poi naturalmente ci infileremo anche dentro i teatri e anche dentro i quartieri, là dove abbiamo la Casa delle Storie. Quanti sono gli eventi e quali sono i luoghi? I luoghi sono proprio quelli che ho cominciato a nominare, no? La via della biodiversità, sono luoghi che si irradiano nella campagna, vicino ai torrenti, dentro ai boschi. Poi ci infileremo dentro a un parco storico bellissimo nel centro culturale di Cavriago, il Multiplo, che è un centro culturale straordinario, è diventato un parco che ogni albero ha dei versi dedicati, grazie a un'azione che è partita dal basso, dai cittadini, e lì faremo i nostri versi tra i rami, quindi la poesia che si abbraccia alla natura. Poi ripercorreremo la Rupe di Campotrera, che è un luogo che avevamo già abitato con un trekking di fiabe, questa volta con la compagnia Teandric, con i pellegrini a rivedere le stelle, quindi un cammino dentro ancora i versi danteschi, ma non solo, dentro il respiro, dentro l'ascolto, quindi la compagnia di Cagliari che viene a trovarci, che è ospite. E saremo però anche in cammino dentro al quartiere del Gattaglio, dove abbiamo la nostra Casa delle Storie, che è una zona di confine che è stata un torrente, insomma il crostolo tra la zona di periferia della città, è un vecchio quartiere operaio, lì faremo la nostra camminata dadaista, ma dentro la Casa delle Storie fare Saluti dalla Terra, che è lo spettacolo che da 2 anni facciamo camminare, che è proprio sul tema dell'ambiente. Sarà ospite anche il Teatro degli Acerbi col Testamento dell'Ortolano, in un posto meraviglioso che è l'azienda Api Libere. Sono 2 ragazze giovanissime, sono ripartite dal salvataggio delle api, anche di una specie selvatica che potrebbe non riprodursi più. Poi straordinariamente le poetesse, quindi Sabrina Zartana e Silvia Vecchini, verranno a trovarsi e in natura saranno gli incontri anche vivi dei laboratori di poesia e degli incontri sulla poesia. Sabrina Zartana è vincitrice del premio Andersen quest'anno, lo scorso anno Giusy Quarenghi ci è venuta a trovare insieme a Guglia Risari, ci diceva che i versi che escono anche da un sentire che è anche in modo preponderante femminile, potessero tradurre anche un po' dell'invisibile che stiamo vivendo, delle cose che si fanno fatica a dire. C'è anche un'altra donna straordinaria che è Annalisa Corrado, è un'ecologista, è una scrittrice, è in prima linea, è un'ecofemminista. Abbiamo incontrata Orticelli Ribelli, un altro festival che parla di questo, è diventata molto più che un'amica, è secondo un faro illuminante, e lei ci parlerà delle ragazze salveranno il mondo. Da questo libro poi stiamo preparando uno spettacolo. E quindi è molto vario, no? Perché c'è una possibilità di far camminare il pubblico all'interno degli spazi, mentre abbiamo anche una sistole, una diastole, cioè il momento in cui il pubblico si raccoglie dentro gli spazi, come la Casa delle Storie, come un giardino, un centro culturale, e poi diventa attivo perché c'è la scrittura anche, chiamiamo la scrittura delle persone. E con il nostro trekking di fiabe con cui iniziamo anche la prima parte del progetto Calvino, perché il 2023 è l'anno dedicato ai 100 anni di Calvino. Le fiabe camminano nel nostro territorio, ci dicono anche le nostre radici e sono vere, mi diceva Calvino, le fiabe sono vere, ci aiutano a superare un po' di paure. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Il sito del Teatro dell'Orsa, il Facebook del Teatro dell'Orsa e anche l'Instagram del Teatro dell'Orsa. Il titolo del festival, come tu hai ben ricordato, è Poeta Terra, dal 3 settembre al 9 ottobre, e non vediamo l'ora di immergerci con voi tra musica, teatro, poesia e respirare un'aria di cambiamento che è necessario. Saluti dalla Terra non sarà solo il festival Poeta Terra, camminerà il nostro spettacolo, e l'urlo del pianeta è anche un inno d'amore per dire che non è tutto perduto e tutti ogni giorno possiamo fare qualcosa per cambiare quello che sembra franarci sotto i piedi. Questo per la seconda edizione, un saluto e un ringraziamento a Monica Morini del Teatro dell'Orsa. A presto! Grazie, grazie Federico, grazie a tutti voi. con Tanita Spang, co-direttrice artistica dell'undicesima edizione del Teatro nel Bicchiere Festival dal titolo Rinascimenti. A Scansano dal 23 luglio al 10 settembre 2022, ben trovata. Ciao, ciao, buongiorno. Ce lo presenti? Quest'anno abbiamo scelto come tema i Rinascimenti, appunto come auspicio in questo tempo sospeso che stiamo vivendo. È in bilico tra una preghiera e una provocazione, ovviamente, però è un tema che esiste e che si declina nelle scelte artistiche intraprese quest'anno, quindi nella programmazione. Il primo spettacolo era il 28 luglio con Motus, abbiamo avuto il piacere di ospitare appunto Daniele, Enrico e Silvia Calderoni con la performance Uber Nothing But Wind, non eri altro che vento. E infatti da qui il tema del Rinascimento, come la fenice che rinasce dalle sue ceneri. Ecco, è più un auspicio di rinascita in sé che ovviamente un riferimento al classicismo e al Rinascimento. È un festival multidisciplinare perché appunto si occupa di vari generi, non solo teatro, noi ci chiamiamo Teatro nel Bicchiere, ma ci occupiamo anche di danza, di musica, di performance, di arti performative dal vivo e di arti visive. Qui in Maremma siamo state di fatto le prime a portare anche una certa avanguardia, la nuova scena contemporanea e i nuovi collettivi artistici, ecco, lo facciamo dal 2012 con tanto amore e con tanta passione. Quanti sono gli eventi di questa edizione? Quest'anno 25 spettacoli in 23 giorni di festival. Abbiamo iniziato il 23 luglio con il laboratorio di Luna, Cenere e Genealogia, con una open call aperta a tutti, e chiuderemo il 10 settembre al Parco Archeologico di Roselle con A1 Beat, che è uno spettacolo site specific di danza contemporanea di questa compagnia milanese che si chiama Saint Papier, che è una delle migliori realtà di danza che abbiamo qui in Italia, e appunto fanno un lavoro pensato apposta per il sito in cui si svolge la performance. E saranno tre appuntamenti il 10 settembre per 40 visitatori alla volta che indosseranno delle cuffie con questa sinfonia di Tristan Paris che li accompagnerà e creerà questa situazione di, ecco, esperienza comune e singola allo stesso tempo, come lo spettacolo di questo progetto di Elio Germano, Così è Onipare, che abbiamo presentato a Palazzo Dio qui a Scansano, che appunto è un'esperienza che si fa tra il teatro e il cinema, e si tratta esattamente di realtà virtuale, indossando dei visori e delle cuffie, e si diventa uno dei personaggi dell'opera pirandelliana, e questo lavoro indaga con grande profondità il tema della verità, riportandolo anche al nostro tempo. Quindi c'è un tempo circolare, non lineare. Com'era nato il festival? Un po' per caso, nel senso che la co-direttrice Alessandra Lazzari e co-fondatrice del festival aveva incontrato, ormai nel lontano 2012, appunto Roberto Bacci, che è una delle colonne storiche del teatro italiano, appunto tra i fondatori di Sant'Arcangelo di Romagna. Lui viene citato in tutti i libri di storia del teatro italiano. E presentava uno spettacolo qui al Teatro Castagnolo Scanzano, perché qui a Scanzano abbiamo un bellissimo teatro all'italiana, da quasi 200 posti. Ed era qui nella rassegna invernale. E allora Alessandra alla fine dello spettacolo chiese appunto se era presente Roberto, perché vedeva che gli attori salutavano come consuetudine fare, insomma, verso gli spalti, la balconata. E infatti Roberto c'era ed era una notte di inverno. E allora scese e Alessandra lo presentò all'amministrazione, insomma, disse: ah, allora Roberto, loro non si erano mai conosciuti prima. E insomma Roberto con il suo fare disse: ah, questo bel paese, beh, un po' disabitato, però qui si potrebbe fare qualcosa di bello, qualcosa per te. Insomma, tornò con questa bellissima brochure di Lisboa, spettacolo itinerante in bicicletta. E così iniziò che l'estate del 2012 facemmo la prima edizione del festival, una due giorni, cui spettacoli principali erano appunto Lisboa e poi la proiezione di Cesare deve morire, che aveva appena vinto l'Orso d'Oro a Berlino, insomma, dopo tantissimi anni che non vinceva un film italiano, e altri piccoli appuntamenti. E questa era la prima edizione, ed erano due giorni, e insomma adesso sono più di 20. I luoghi del festival? Sono i paesaggi della Maremma. Negli anni abbiamo lavorato sulla costa, fino appunto alle colline del comune di Scanzano, che è un comune molto ampio. I luoghi sono principalmente all'aperto, luoghi non convenzionali, poi ovviamente utilizziamo anche il Teatro Castagnoli. Quest'anno il festival si è svolto in tre atti, l'apertura è stata in primavera con la collaborazione con il FAI per le giornate FAI di primavera a Scanzano e abbiamo fatto l'apertura con la presentazione dei primi lavori delle residenze artistiche, che quest'anno abbiamo portato avanti anche questa progettualità trasversale delle residenze artistiche. Allora avevamo Poema della fine, Capocetto del Bosco di Zaches Teatro e quindi tanti luoghi, dal teatro alle cantine, alle spiagge, ai campi, ai siti archeologici. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il sito è www.teatronelbicchiere.com, siamo su Facebook e su Instagram, Teatro nel Bicchiere Festival, e insomma ci si può iscrivere alla newsletter, così si rimane informati. 11ª edizione del Teatro nel Bicchiere Festival dal titolo Rinascimenti a Scanzano dal 23 luglio al 10 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Tanita Spang. A presto! Grazie, a presto! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.